ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. March 12, 1942, giovedì sera, le 11:30. Era indescrivibilmente bello, Max. La nostra tazza di caffè e la cattiva sigaretta e la nostra passeggiata a braccetto per la città oscurata e il fatto che noi due camminassimo insieme. Chi conosce la nostra storia, come si meraviglierebbe di questo strano incontro, così, senza alcun motivo, tranne che Max vuole sposarsi e desiderava avere un consiglio da me. Buffo, proprio da me. E questo era appunto così bello, che uno riveda l'amico di gioventù e lo possa rispecchiare nella propria cresciuta maturità. Max diceva all'inizio della serata: «Non so cosa sia, ma qualcosa in te è cambiato, sei diventata una vera donna». E alla fine: «No, non sei cambiata in peggio, non voglio dire questo. I tuoi tratti, la tua mimica, tutto è ancora vivace e espressivo come una volta. Ma dietro queste cose c'è ora una così grande chiarificazione. È bello stare con te». E mi puntava ancora un momento la lampadina in faccia. Rideva, come riconoscendomi, con un cenno del capo e annuiva: «Sì, sì, sei proprio tu». E allora le nostre guance si sono sfiorate in un modo insieme goffo e familiare e siamo partiti in direzioni opposte. È stato davvero indescrivibilmente bello. E per quanto possa sembrare paradossale, forse era la prima volta in cui siamo stati veramente bene insieme. Mentre camminavamo, Max ha detto d'un tratto: «Forse col passare degli anni tu e io potremo ancora diventare veri amici». E così nulla va perso. Le persone ritornano e interiormente puoi continuare a vivere con loro finché qualche anno più tardi sono di nuovo unite a te. L'8 marzo scrivevo a esse: «Una volta la mia passionalità non era nient'altro che un aggrapparsi disperato a che cosa, precisamente? A qualcosa a cui non ci si può affatto aggrappare col corpo. Ed era proprio al corpo di Max, dell'uomo che questa sera camminava fraternamente accanto a me, che allora mi ero aggrappata in una disperazione insopportabile». E questo, appunto, in qualche modo dava gioia. Il fatto che fosse rimasto tutto ciò, il buon scambio fiducioso dei nostri pensieri, il breve reciproco indugiare nell'atmosfera dell'altro, l'evocare ricordi che non facevano più male, mentre una volta ci eravamo letteralmente distrutti a forza di vivere intensamente, e anche il constatare per un momento con la massima tranquillità: è vero, eravamo proprio degli esaltati. Ma era proprio di nuovo Max che chiedeva: «Hai avuto allora un'altra relazione?» E io con due dita per aria. Più tardi, quando ho accennato al fatto che avrei forse sposato un emigrato per potergli star vicina se fosse stato mandato in un campo, ha avuto un attimo di sconcerto. Salutandomi ha detto: «Mi prometti che non farai stupidaggini? Ho tanta paura che una volta o l'altra tu vada in pezzi». E io non mi rompo mai e in nessun posto. E volevo ancora aggiungere un'altra cosa, ma a quel punto eravamo già troppo distanti. Se tu vivi interiormente, forse non c'è neanche tanta differenza tra essere dentro o fuori di un campo. Sarò capace di assumere la responsabilità di queste parole di fronte a me stessa? Sarò capace di viverle? Non possiamo farci molte illusioni. La vita diventerà molto dura e saremo di nuovo separati, tutti noi che ci vogliamo bene. Credo che quel tempo non sia più molto lontano. È sempre più necessario prepararci interiormente. Mi piacerebbe leggere le lettere che gli scrivevo a 18 anni. Max diceva: «Sono sempre stato così ambizioso per te. Mi aspettavo che avresti scritto dei gran libri». E io: «Max, quelli verranno. Hai fretta? Io so scrivere e so che avrò pure qualcosa da dire. Ma perché non dovremmo avere pazienza?» «Sì, lo so che sai scrivere. Ogni tanto rileggo le tue lettere. È vero che sai scrivere. È però consolante che queste cose possano ancora succedere in un mondo lacerato. Forse queste possibilità sono assai più grandi di quanto non ammettiamo di fronte a noi stessi. Che un amore giovanile improvvisamente ritrovi se stesso e guardi indietro sorridendo al proprio passato e che si sia riconciliato con questo passato. Così è successo a me. Io ho dato il tono a questa serata e Max mi ha seguita, e questo era già tanto. E così anche tutto non è più un caso, un piccolo passatempo, una Spielerei di quanto in quanto, un'avventura avvincente. Si ha la sensazione di avere un destino in cui i fatti si innescano in una successione ricca di significato. E se penso a come noi due camminavamo insieme per la città buia, maturati e inteneriti sul nostro passato, e con la sensazione che avremmo avuto ancora molto da raccontarci, lasciando però insieme nel vago quando ci saremo rivisti, forse ci vorrà ancora qualche anno, allora mi sento seriamente e profondamente grata che una cosa simile sia possibile in una vita. Ora è quasi mezzanotte e vado a dormire. Sì, è stato molto bello. E alla fine di ogni giornata sento il bisogno di dire: la vita è davvero bella. Davvero. Mi sto facendo una mia opinione su questa vita. Un'opinione che so persino difendere davanti agli altri. E questo dice non poco sulla ragazzina timida che sono sempre stata. E ci sono dei discorsi, come quello di ieri sera con Jan Polak, in cui le parole diventano testimonianza. Martedì mattina, le 9:30. Ieri sera, mentre andavo da lui in bicicletta, avevo dentro un grande dolce desiderio di primavera. E mentre pedalavo, sognando sull'asfalto della Larissestraat, tutta impaziente di vederlo, d'un tratto mi sono sentita accarezzare da una tiepida aria di primavera. E ho pensato: anche questo va bene. Perché non si potrebbe provare un grande tenero trasporto amoroso per una primavera, per tutti gli uomini? E si può anche fare amicizia con un inverno, con una città o con una campagna. Mi ricordo il faggio rosso vino della mia adolescenza. Avevo un rapporto speciale con quella pianta. Alla sera ero capace improvvisamente di provarne nostalgia e allora andavo a cercarla. Facevo mezz'ora di bicicletta e poi le giravo intorno, presa e incantata dalla vista di quell'albero rosso sangue. Sì, perché non si potrebbe avere un'esperienza amorosa con una primavera? E la carezza di quell'aria era così tenera e così universale che le mani di un uomo, anche le sue, mi sembravano ruvide al confronto. Così sono arrivata a casa sua. La piccola camera da letto prendeva un po' di luce dallo studio. Entrandovi ho visto il suo letto pronto per la notte e sopra il letto si incurvava un ramo carico di orchidee profumate. E sul tavolino vicino ai suoi guanciali c'erano dei narcisi così gialli, così straordinariamente gialli e giovani. Quel letto pronto, le orchidee e i narcisi, non c'è neppure bisogno di coricarsi insieme in un letto così. Mentre sostavo un momento nella camera in penombra, era proprio come se avessi trascorso un'intera notte d'amore. Lui era seduto al suo piccolo scrittoio e di nuovo notavo che la sua testa era come un paesaggio grigio corroso dal tempo, antichissimo. Ecco, una persona deve aver pazienza. Il tuo desiderio deve essere come una nave lenta e maestosa che naviga per oceani infiniti e non cerca un luogo in cui gettar l'ancora. Ed un tratto, inaspettatamente, lo trova per un momento. Ieri sera ha trovato per un poco il suo porto. Eppure sono passati solo 14 giorni da quando ero stata così sfrenata e l'avevo attirato a me, facendo in modo che mi cadesse addosso, e poi avevo pensato che sarei morta dall'infelicità. E solo una settimana fa mi sono lasciata scivolare fra le sue braccia, e in un modo o nell'altro ero poi infelice perché in quella situazione c'era un che di sforzato. Ma quelle tappe devono pure essere state necessarie per arrivare a questo scivolare dolcemente l'uno verso l'altro, a questa intimità, a questo esserci reciprocamente cari e buoni. Una sera come questa conserva nel ricordo tutta la sua grandezza. E forse non si ha neppur bisogno di tante sere così per avere ugualmente la sensazione di possedere una piena e ricca vita amorosa. Di sera, le 9, la mia marocchina dall'aria grave guarda di nuovo nel giardino di fiori, o piuttosto, come sempre, ci passa sopra con lo sguardo dei suoi occhi scuri, che sono limpidi e animaleschi al tempo stesso. I piccoli crochi, gialli e violetti e bianchi, penzolano spossati sull'orlo della scodellina del cioccolato in polvere. Rispetto a ieri sono quasi del tutto avvizziti. E quelle campanule gialle nel trasparente cristallo verde, come vi chiamate voi? Le ha comprate esse in uno slancio di primavera e ieri sera era già arrivato con quel mazzo di tulipani. Piccolo bocciolo rosso e ancor più piccolo bocciolo bianco, così chiusi, così inaccessibili e insieme così indicibilmente dolci. Ho dovuto guardarvi tutto il tempo oggi pomeriggio durante la musica di Hugo Wolf. C'era anche il Rijksmuseum dietro le finestre, fresco e nuovo nei suoi contorni come una provocazione e insieme così vecchio e familiare. C'è stato proibito di passeggiare sul Vandelweg. Ogni misero gruppetto di 2 o 3 alberi è dichiarato bosco e allora sulle piante è inchiodato un cartello con la scritta vietato agli ebrei. Questi cartelli diventano sempre più numerosi dappertutto. E ciò nonostante, quanto spazio in cui si può ancora stare e essere lieti e far musica e volersi bene. Glasner aveva portato un sacchetto di carbone, Tide un po' di legna, esse zucchero e biscottini, io avevo del tè e la nostra piccola artista vegetariana svizzera arrivava qui con un grosso cake. Prima esse ci ha letto qualcosa su Hugo Wolf e mentre leggeva alcuni passaggi su quella vita tragica il suo viso gli tremava un poco intorno alla bocca. Anche per questo mi è tanto caro. È così vero. E ogni parola che dice, canta o legge, la vive. Quindi se legge cose tristi, diventa veramente triste anche lui. Trovo commovente quando è così emozionato che sembra stia quasi per piangere. Allora piangerei volentieri un pochino con lui. Quel Glasner che continua a far progressi al piano. Oggi pomeriggio gli ho detto di nascosto: ti accompagniamo nella tua crescita, silenzioso Glasner. Ci sono momenti in cui d'un tratto, quasi fisicamente, capisco come un artista creativo possa cadere nel bere, abbandonarsi agli eccessi, smarrirsi completamente, eccetera, eccetera. Un artista ha veramente bisogno di un carattere molto forte per non sfasciarsi moralmente, per non cadere in abissi senza limiti. Non saprei proprio descrivere questo fenomeno. A volte mi capita con molta intensità. Tutta la mia tenerezza, le mie forti emozioni, quel mare dell'anima molto mosso, lago dell'anima, oceano dell'anima, come dir si voglia, vorrei poterli riversare in un'unica piccola poesia, ma sento pure che nel caso ci riuscissi, vorrei immediatamente buttarmi a rompicollo in un abisso, vorrei ubriacarmi. Dopo un'azione creativa, uno dovrebbe essere trattenuto dalla propria forza di carattere, da una morale che offra un appiglio, da non so che cosa, per non cadere Dio sa in quali profondità. E per quale oscuro impulso? Io lo sento in me, nei momenti interiori più fecondi e creativi, quando dentro di me si alzano dei demoni e forze distruttive e autodistruttive si mettono in agguato. Non è neppure il normale desiderio che sia dell'altro, dell'uomo, è qualcosa di più cosmico, universale, inarrestabile. Sento però che anche in quei momenti io comincio a controllarmi. Allora provo di colpo il bisogno di inginocchiarmi in un angolino tranquillo, di tenermi a freno e ben raccolta in me stessa, di vegliare che le mie forze non si disperdano in una regione senza limiti. Alla fine di questo pomeriggio ho trovato per un momento una barriera che mi ha fermata e contenuta, il limpido sguardo grigio chiaro di esse che mi ha completamente assorbita e la sua cara grossa bocca. Per un momento mi sono sentita al sicuro, trattenuta da quello sguardo. Ma tutto il pomeriggio avevo errato per uno spazio illimitato dove non c'erano confini a tenermi. E allora poi un limite lo si trova di colpo, quello per cui non si sopporta più la sconfinatezza e dalla disperazione che si prova ci si può abbandonare agli eccessi. Quell'intreccio di rami scuri nella luce chiara e trasparente della primavera. Stamattina al mio risveglio trovavo le cime degli alberi dietro la mia finestra e oggi pomeriggio, un piano più in basso, dietro le larghe finestre, trovavo i tronchi. Il bocciolo rosso di tulipano e quello bianco, inclinati l'uno verso l'altro, il nobile pianoforte a coda, nero e misterioso e complicato, un essere a sé, e dietro le finestre i rami scuri contro il cielo chiaro e più in là ancora, il Rijksmuseum. E esse, un momento estraneo eppure familiare, molto lontano e insieme molto vicino, d'un tratto un brutto antichissimo gnomo, poi di nuovo uno zio benevolo un po' appesantito e ghiotto di biscotti, poi ancora lo charmer dalla voce calda, sempre diverso, il mio amico, ma insieme lontano. Aprile 1942. Ecco un piccolo anemone rosso, un po' sbattuto per aver festeggiato troppo. Ma fra un po' di anni lo ritroverò tra queste pagine. Sarò diventata una matrona allora. Prenderò in mano questo fiore disseccato e dirò con nostalgia: ecco, quest'anemone l'avevo tra i capelli per il 55° compleanno del grande, indimenticabile amico della mia giovinezza. Era il terzo anno della Seconda Guerra Mondiale. Mangiavamo clandestinamente maccheroni e bevevamo caffè vero, con cui Liesel era diventata Brilla. Eravamo tutti così allegri e ci chiedevamo a che punto sarebbe stata la guerra al prossimo compleanno. Io avevo fra i capelli questo anemone rosso e qualcuno diceva: sei proprio un miscuglio di russo e spagnolo. E un tale, quello svizzero biondo dalle grosse sopracciglia, diceva: una Carmen russa. Dopodiché gli ho chiesto di recitarci una poesia su Guglielmo Tell col suo buffo R svizzero. Poi siamo tornati a piedi passando per quelle vie familiari di Amsterdam Sud e siamo prima saliti sul suo terrazzino fiorito. Intanto Liesel ci aveva preceduti a casa sua e si era infilata un vestitino di lucente seta nera, ben stretto sul corpo magrolino e con larghe maniche trasparenti azzurre, lo stesso azzurro sui piccoli seni bianchi. E pensare che è madre di due bambini, così magra e fragile, allo stesso tempo ha come una forza primordiale. E Anne aveva un'aria così disinvolta e intraprendente. E sul suo cartoncino a tavola c'era scritto «Amante eternamente giovane, padre di eroine», una definizione che lui accettava protestando. «Più tardi, Liesel mi ha detto, potrei innamorarmi di quest'uomo. Ma ciò che ha dato spicco alla serata, perlomeno per me, è stato questo. Erano circa le 11:30. Nell'altra stanza Liesel era seduta al pianoforte, esse su una sedia davanti a lei, io appoggiata a lui. Liesel ha chiesto qualcosa, di colpo ci siamo trovati immersi nella psicologia e esse, con la sua faccia intensa e espressiva, ha cominciato a spiegarglielo, chiaro, vivace e disponibile come sempre. E pensare che aveva dietro di sé una giornata di lettere, fiori e persone, traffico, di organizzazione di un pranzo e essere capotavola e più tardi vino e ancora vino, cosa che lui non sopporta tanto bene, e deve essere stato ben stanco. Ma quando gli capita qualcuno con una qualunque domanda sui grossi problemi di questa vita, subito si impegna, c'è. In quel momento, esse avrebbe potuto parlare da una cattedra a un pubblico attento. E all'Isl è venuto di colpo un faccino commosso, soprattutto quell'azzurro trasparente, e guardandolo con occhi spalancati ha balbettato in quel suo modo commovente. Trovo toccante che lei sia così. Io mi sono appoggiata ancor di più a esse. Ho accarezzato la sua testa così buona e espressiva e ho detto all'Isl, è vero, ciò che più colpisce in esse è proprio la sua prontezza e disponibilità, il suo aver sempre una risposta per te. E così le ore passate insieme acquistano un significato profondo, non si perde mai tempo. E esse ha fatto una faccia meravigliata, quasi un po' infantile, con un'espressione che non riesco ancora affatto a descrivere, è da un anno che cerco le parole, e ha detto «Ma non è così con tutti?» Ha baciato la piccola Liesel sulle guance e sulla fronte e mi ha attirata più vicino al suo ginocchio. E io ho dovuto di colpo pensare a Liesel un paio di settimane fa sul suo tetto al sole. Mi piacerebbe passare qualche giorno con esse e con te. Esse diceva, non bisogna mai toccare i limiti. Bisogna che rimanga sempre qualcosa per la fantasia. 18 maggio 1942. Le minacce e il terrore crescono di giorno in giorno. Mi innalzo intorno la preghiera come un muro oscuro che offra riparo. Mi ritiro nella preghiera come nella cella di un convento. Ne esco fuori più raccolta, concentrata e forte. Questo ritirarmi nella chiusa cella della preghiera diventa per me una realtà sempre più grande e anche un fatto sempre più oggettivo. La concentrazione interna costruisce alti muri fra cui ritrovo me stessa e la mia unità, lontana da tutte le distrazioni. E potrei immaginarmi un tempo in cui starò inginocchiata per giorni e giorni, sin quando non sentirò di avere intorno questi muri che mi impediranno di sfasciarmi, perdermi e rovinarmi. 26 maggio, martedì mattina, 9:30. Ho camminato lungo la riva, in un vento tiepido e rinfrescante al tempo stesso. Siamo passati davanti a Lillà, Roselline e soldati tedeschi che montavano la guardia. Abbiamo parlato del nostro futuro e del fatto che preferiremo rimanere insieme. Non posso assolutamente descrivere com'era ieri. Tornando a casa nella notte tiepida, così pigra e leggera dopo il Chianti bianco, ho ritrovato improvvisamente quella certezza che ora, con un portapenne in mano, è di nuovo sparita. Un giorno scriverò. Le lunghe notti che passerò seduta a scrivere saranno le mie notti migliori. E allora verrà fuori tutto quel che accumulo dentro, scorrerà pian piano come una corrente senza fine. Di sera, dopo cena. Oggi ancora, Michelangelo e Leonardo. Anche loro sono nella mia vita e la riempiono. Dostoevskij e Rilke e Sant'Agostino e gli evangelisti. Frequento un'ottima società. E non c'entra più il bello spirito da letterato di un tempo. Ognuno di loro ha qualcosa di vero da raccontarmi e molto da vicino. Certe cose di Michelangelo mi hanno presa inaspettatamente alla gola. È stato un incontro di grande immediatezza. Ci si abbandonava smodatamente alle proprie tristezze, sino all'autodistruzione. È diventata una frase leggendaria. Ora non succede più. Anche nei giorni di grande stanchezza e tristezza non mi lascio più cadere così in basso. La vita rimane una corrente ininterrotta. Forse in questi giorni un po' più lenta e ostacolata, ma continua tuttavia a scorrere. Non dico più, sono così infelice, non so più che fare, questo non mi importa più niente. Una volta avevo ogni tanto la pretesa di essere la persona più infelice di questa terra. Dio, certe volte non si riesce a capire e ad accettare ciò che i tuoi simili su questa terra si fanno l'un l'altro in questi tempi scatenati. Ma non per questo io mi rinchiudo nella mia stanza, Dio. Continuo a guardare le cose in faccia e non voglio fuggire dinanzi a nulla. Cerco di comprendere i delitti più gravi. Cerco ogni volta di rintracciare il nudo, piccolo essere umano che spesso è diventato irriconoscibile, in mezzo alle rovine delle sue azioni insensate. Io non me ne sto qui, in una stanza tranquilla, ornata di fiori, a godermi poeti e pensatori glorificando il Dio. Questo non sarebbe proprio tanto difficile. Né credo di essere così estranea al mondo come dicono inteneriti i miei buoni amici. Ogni persona ha la sua realtà, lo so. Ma io non sono un sognatore visionario, una bell'anima ancora un po' adolescente. Werner diceva nel mio romanzo: da una bell'anima a una grande anima. Io guardo il tuo mondo in faccia, Dio, e non sfuggo alla realtà per rifugiarmi nei sogni. Voglio dire che anche accanto alla realtà più atroce c'è posto per i bei sogni e continuo a lodare la tua creazione, malgrado tutto. Tra poco, quando lui mi telefonerà e mi chiederà col suo tono inquisitorio: e allora come sta? Potrò rispondere sinceramente: sopra, molto bene, sotto, molto male. Spesso, nel momento in cui vengono toccati, i problemi sono già quasi risolti, perlomeno in psicologia è così. Nella vita forse è molto diverso. D'un tratto mi sono resa conto che collego troppo le mie malattie con esse e l'ho notato in una goffa frasetta. E così, con una piccola improvvisa cesura, mi sono staccata di un altro trattino da lui e tra poco lo incontrerò dopo essermi guadagnata un altro pezzetto di libertà. Il processo di reciproco avvicinamento è dunque parallelo a quello della reciproca liberazione. In giorni di grande debolezza, forse senza accorgermene, io mi aggrappo alla sua forza come alla mia salvezza. Allo stesso tempo, quella forza sovrabbondante mi scoraggia perché mi sento impari, temo di non tenerle dietro. Né l'una né l'altra sono la reazione giusta. La mia guarigione e rigenerazione devono venire dalle mie forze, non dalle sue. E in periodi come questo, la sua dirompente forza vitale può anche irritarmi o spaventarmi. Ma forse questo capita spesso a una persona malata nei riguardi di una sanissima, perché si sente come diseredata.